Il punto di Stefano Folli. Siamo quindi arrivati ai giorni decisivi del lungo braccio di ferro fra Berlusconi e il Partito Democratico sulla decadenza dal Senato dell'ex premier condannato dalla Cassazione. Non sempre le parole dette e gli ultimatum lanciati vanno presi alla lettera, ma è chiaro che il muro contro muro provoca una vittima inevitabile, la stabilità del governo Letta. Berlusconi sa che provocare la crisi comporta per il centrodestra conseguenze imprevedibili e non certo positive per lui e i suoi interessi anche economici. D'altra parte, quello che egli può ottenere dalla Giunta del Senato è al massimo un rinvio delle decisioni, non una soluzione. C'è la posizione espressa nei giorni scorsi da Violante e ieri ripresa nella sostanza dal ministro Cancellieri, riconoscere cioè che un rinvio alla Corte Costituzionale affinché valuti alcuni aspetti della legge Severino non sarebbe poi illogico. È uno spiraglio, ma forse troppo stretto. Nasce dalla preoccupazione, che è anche del Quirinale, che una crisi adesso sarebbe davvero grave e pericolosa.